Con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema per documentario The Brink, sull'orlo dell'abisso di Alison Kleiman al cinema da lunedì 29 aprile 2019. Anastasia, ben trovata. Raccontiamolo Ciao, salve a tutti. brevemente a chi ci ascolta. Prima cosa dico che la regista Alison Kleiman è una vecchia conoscenza nostra, ma forse anche di qualcuno di voi, perché magari a qualcuno è capitato di vedere I Weigh Weigh Never Sorry, l'altro documentario molto, molto bello e interessante che lei aveva già girato. Una giovane regista che ha 35 anni e che ha già appunto fatto un documentario così importante, che è passato al Sundance, e anche questo film ha avuto la sua anteprima internazionale al Sundance di quest'anno. Quindi è fresco fresco e l'abbiamo preso, portato subito in Italia, subito dopo gli Stati Uniti. Quindi diciamo che siamo la seconda uscita nazionale in termini di tempistica, di tempo. Insomma, la cosa mi inorgoglisce molto perché di solito l'Italia arriva tanto, tanto dopo. Perché abbiamo deciso anche di fare le cose così velocemente, accelerare i tempi per portarlo prima possibile, quando ancora non era neanche finito di montare, perché poi è stato rimontato anche dopo il Sundance. Perché il film parla, e rispondo ora alla tua domanda, racconta il viaggio di Steve Bannon in Europa. Steve Bannon, forse qualcuno lo conoscerà già, spero che qualcuno lo conosca già, soprattutto in questi tempi si parla di lui molto per l'abbazia di Trisulti, che dovrebbe diventare, non si sa ancora, c'è scoppiata una polemica attorno a questo fatto, l'Accademia dei Sovranisti, quindi una scuola di populismo europeo, e Bannon dovrebbe essere uno dei docenti più importanti. Bannon è, diciamo, lo stratega numero uno di Donald Trump, artefice del suo successo, si dice, e dopo essere stato in qualche modo allontanato dalla Casa Bianca, dopo aver lasciato quindi gli Stati Uniti, ha deciso di partire alla conquista dell'Europa, col Removement, cercando di mettere insieme quindi tutti i movimenti populisti o di destra europei, con l'obiettivo di, soprattutto queste elezioni europee, queste sono fondamentali, quindi per lui, che naturalmente è anti-europeista, e quindi ha la sua strategia, il suo pensiero, la sua filosofia di politica, e il film, Alison è riuscita ad avere l'autorizzazione, poi se volete gli racconto che come, di seguirlo per la bellezza di 13 mesi, quindi è stata a fianco a quest'uomo per 13 mesi in tutti questi viaggi che lui ha fatto, toccando appunto tutti i paesi europei, Italia inclusa. Quindi assistiamo a degli incontri molto interessanti anche tra Bannon Salvini, Bannon La Meloni, Bannon e altri personaggi che sono anche alla cronaca oggi, di questi giorni. Insomma, è un film politico, sicuramente politico, che dovrebbe, ed è uno degli obiettivi, anzi l'obiettivo principale per cui abbiamo deciso di portarlo in Italia, dovrebbe stimolare dei dibattiti e far scoprire o riscoprire oppure approfondire la figura di questo stratega del populismo, che magari è poco noto, ma però tiene veramente le fila di tante cose che non abbiamo nemmeno idea. È comunque una persona, è una persona molto influente, che conosce tutti, e lo scoprirete vedendo il film, che ha accesso a tantissimi finanziamenti, quindi è amico dei milionari, miliardari, insomma sa di fatto suo, sa molto di comunicazione. Infatti nel film pure ogni tanto risulta pure ogni tanto simpatico, perché comunque lui ovviamente sa bene manovrare i mezzi della comunicazione. Infatti Trump si sa che come quello è stato uno delle sue chiavi. Incendio. È un viaggio con lui che fa scoprire un personaggio piuttosto agghiacciante, e nonostante Alison non giudichi, nel senso che nella scelta di montaggio ovviamente racconta un personaggio così com'è, ma lei vuole guardare, lei ha deciso di partita più possibile, con un atteggiamento il più possibile obiettivo, cioè, sapeva a mente chi fosse questo personaggio, lo conosceva bene, però ha cercato di lasciarlo veramente, di osservarlo e lasciar parlare la camera, questo un po' cinema verite, se vuoi, come atteggiamento. Tra l'altro, lui è stato uno dei vertici di un'importante banca globale. Sì, la Goldman Sachs mi Sì, pare, no? sì, Che sono sì, sì. sì, perché con tutti i nomi che vengono fuori, anche legati al Goldman Sachs, mi perdo anche io nel mille rivoli, però ci sono delle figure fondamentali che vengono nominate nell'arco di tutto il documentario, tutto un insieme di incontri, fatto di incontri. Uno dei momenti bizzarri per quanto riguarda il capitolo italiano è un incontro al Viminale con vari sovranisti, compreso Bannon, in una sede istituzionale, quindi lo trovo piuttosto bizzarro l'episodio. Sì, infatti, infatti, ma poi lui in realtà è spessissimo a Roma e viene abbastanza considerato e invitato in situazioni quasi, situazioni anche, come dici tu, quella qualcosa fa tra l'altro, Era un comunque incontro suscita politico. commenti, sì, suscita commenti all'estero, soprattutto in Inghilterra, dove poi c'è il Guardian in particolare, che è uno che sa, segue molto le vicende di Bannon e va a fondo con degli approfondimenti, insomma. Sì, ha fatto anche un incontro di recente con Calenda proprio sul tema Europa sì, Europa no. Insomma, sì, lui è molto seguito e è accettato in situazioni ufficiali nel nostro paese. Sì. Cosa ti ha impressionato di questo lavoro? Mi ha aperto dei mondi, nel senso che io lo conoscevo vagamente, nel senso che lo sapevo quello che avevo letto, ma insomma non avevo la minima idea di quanto comunque lui fosse da una parte potente e dall'altra comunque per fortuna poi viene fuori anche questa cosa, sicuramente anche in declino rispetto poi all'epoca d'oro. Quindi no, quello che mi ha interessato è il personaggio, scoprire questo personaggio, perché ma puoi immaginare, con 13 mesi, a parte le 200 e oltre ore di girato, quello che è venuto fuori comunque ha messo in fila del materiale molto interessante. Ha avuto un accesso privilegiato e unico ad una figura così. Infatti, allora vengo a monte, lei in realtà è stata autorizzata per questo semplicemente perché nella sua vita variegata, ho lavorato anche nel cinema, è stato un produttore, un finanziatore di cinema e la produttrice di Ellison era stata una sua collaboratrice, lui era stato il suo capo, di conseguenza avevano comunque mantenuto un rapporto nel tempo e quindi lei è riuscita a convincerlo in questo modo ad autorizzarlo a fare un film su di sé. Ecco. Quindi l'accesso anche privilegiato, naturalmente, scoprire l'uomo al di là di quello che si vede della TV normalmente, siamo abituati a vedere, che ovviamente si vedono delle. Lei non partecipa solo agli incontri istituzionali, agli incontri politici, e con lui sempre quando è a tavola a mangiare, quando insomma lo segue, viene fuori proprio l'uomo bello, che in questo momento è importante che parli di lui, naturalmente, che si parli di che cosa è questo progetto, che cosa ha in mente, perché fa anche un po' di paura, quindi è meglio che Sì, tutti sappiano certo. prima di andare a votare quali sono gli scenari possibili, ecco. Mi sembrano i cardini della sua politica, da quanto emerge nel documentario, e anche per sua stessa ammissione, il nazionalismo e il populismo. Un populismo piuttosto bizzarro anche in questo caso, insomma, predicato dagli alberghi a 5 stelle delle maggiori capitali mondiali. Pensare che esatto, chi gira con jet privato e frequenta sempre hotel 5 stelle riesca abbia a cuore le sorti del popolo, è un po' bizzarro, difficile da credere, è Sì. Che difficile da credere. uscita sarà? È un'uscita, ahinoi, molto, molto piccola, nel senso che, ma lo sapevamo, nel senso che comunque in questi temi, quando si parla di politica, sai, il pubblico è sempre un po' restio, ci sono appunto quelli che sono interessati, che si spera vadano al cinema per approfondire, ma come al solito i temi, cioè, non è una commedia, quindi non è che vai al cinema per svagarti in questo caso, e soprattutto di questi tempi, figurati. Con la crisi generale che c'è, noi insomma, siamo partiti proprio piano piano, adesso saranno una 15 sale la prima settimana e poi stiamo costruendo molti dibattiti anche a Roma, ci saranno i giovani sia di destra che di sinistra dell'università che si confrontano, ad esempio al Farnese il 30 quindi ci sarà un dibattito, cerchiamo di costruire un dibattito che ha il senso di questo film, guardarlo e poi commentare. La regista è venuta in Italia il, vabbè, 15 giorni fa circa, e ha fatto un tour in alcune città, da Milano a Pordenone, dove è stata la stazione dell'inchiesta, poi è scesa a Roma, è risalita a Milano, abbiamo fatto già degli incontri, abbiamo quindi testato questo modello, no? Ed effettivamente funziona, perché poi la gente si ferma dopo il film a dialogare, a discutere, ha molte cose da chiedere, perché stimola curiosità e approfondimento. E quindi cerchiamo di riprodurre quando è possibile, ma nelle varie città, una proiezione con dibattito, alla vecchia maniera, insomma. Ricordiamo allora l'uscita in sala del documentario The Brink, sull'orlo dell'abisso, di Alison Kleiman, al cinema da lunedì 29 aprile 2019, distribuito da Wanted Cinema insieme a Feltrinelli Real Cinema. Un abbraccio, un ringraziamento ad Anastasia Plazzotta. A risentirci grazie presto, a in bocca al lupo. Grazie, grazie, ciao, ciao. Grazie.